che cominciano a sbocciare. Coi compagni la sentiamo che pedala, intanto canta, canta di ciliegie e gonne e occhi neri di carbone. Col fucile in spalla non ti viene voglia di cantare, ma sentir cantar la nonna ci sediamo ad ascoltare. Viene su nel bosco e chiede quando posso ritornare, che settembre nella vigna l'uva è pronta da vendemmia. Ogni notte io mi vedo pedalare fino a casa e nel sogno è bello al sole seppellire il mio fucile. Ma se torno a casa nonna poi mi vengono a cercare e mi legano le mani, io non posso più lottare, e mi sparano nel petto e mi lasciano nel campo a guardare in su la vite, ma non posso far vendemmia. Mangia un poco di quell'uva e il resto lasciala marcire, ci sarà un altro settembre, un'altra vite da innestare. Dentro, ma ciò penso a casa nostra, nonna, io non mi lamento. E con la pioggia e con il sole in mezzo al fango e tra le mosche, la paura nella pancia, le pane bombe nelle tasche, e nella borsa c'è la roncola, regalo del mio babbo. La pulisco, tengo il filo a posto così taglia dritto. All'innesto e ci vuol l'occhio e molti anni a far la mano, a sparare, a far la guerra, invece basta molto meno. Scende giù per la discesa, scende senza pedalare, canta forte, un po' si sente nella voce il suo dolore. Nonna dai che la prendiamo indietro tutta questa terra, e a settembre ci sarà vendemmia invece della guerra. Aspetta, aspetta, vai. Fuori Fedra stanno suonando di brutto, stanno cantando e suonando di brutto. E noi qui dentro cosa facciamo? Noi qui alfiamo un attimo il volume senza che il direttore ci veda, perché altrimenti... Ma come, noi continuiamo a sballare i volumi anche qui? Esatto, visto che noi siamo famosi per sballare i volumi, ma dunque siamo qua a fare una trasmissione resistente. Una trasmissione resistente in un posto meraviglioso. Guarda che bello che abbiamo tutto qui davanti, dietro questo schermo enorme che è una vetrina. Ci abbiamo anche Darth Vader che così vuole colpire il direttore con un colpo di spada laser. Gli faccio una foto così. Creiamo un bel vuoto coccico come da programma solitamente, e io intanto mi sposto un po' di qua e un po' di là in questo... Beh, fai anche una foto della location. No, perché... Quando ho saputo che venivamo qui a trasmettere per il 25, per questa bellissima occasione, mi sono chiesta, ma il coxo? E allora ci sono tantissimi artisti di tutte le arti che hanno insistito sul tema della liberazione, della lotta, e facendo proprio della lotta anche la loro poetica e linkando finalmente l'arte con il dovere etico, morale, la resistenza, cose che noi coxi siamo sempre pronti a trasmettere, anche se in realtà non sembra. Però in realtà, proprio per essere fedeli a noi stessi, la cosa che principalmente vorrei condividere qui con voi che siete qui e magari con quelli che non sono al pratello e ci stanno ascoltando, è un ricordo. Un ricordo, perché il 25 aprile, È aprile, vero? Sì. Bene, bene, la gaffe, questo giro lo teniamo per dopo. E il 25 aprile, da qualche anno ormai, a me riporta sempre alla mente un giorno di 5-6 anni fa ormai. Vivevo... Ci sei, Stefano? No, stava cercando di... Sei molto... Stavo mettendo un jingle. Ah, va bene, ok. Ma... Toxo spaziale. Mi sono scordato di cliccare pausa. Allora io il ricordo lo tengo per dopo. Ma è lungo, eh? È lungo. Un po' ricordosa, se c'è. Ci provo, ma secondo me... Allora, sentite, io, come sapete, a Montesole c'è la grande memorazione ogni anno dell'eccidio nazista. E io qualche anno fa, insieme a un gruppo di amici, sono andata a festeggiare e mi è capitato anche di fare di quei percorsi guidati che mi hanno proprio mostrato luogo per luogo quello che succedeva in quella tragica giornata. Cosa è successo? Poi torniamo giù al pratone, il concerto, le birre, le cose, come è facile festeggiare tra di noi. Andava bene il volume, Doc? No, niente. Va bene, allora vorrà dire che tutto va bene. E cosa è successo? Scendendo giù, alla fine a me piace fare i fuoripista, ma avevo le scarpine basse, insomma mi sono slogata la caviglia. E vabbè, insomma, torno a casa, sì, è andata bene anche perché se non me la fossi slogata questa memoria non ci sarebbe. Esatto, ecco, brava. Prendo dalle tue labbra, voglio sapere cosa è successo dopo la caviglia slogata. E tu, Stefano, vuoi saperlo? Ma io pensavo che fosse un ricordo di qualche tuo avo, invece è una roba che... Però aspetta, perché qui c'è... Il drammatico, c'è il dramma, senti il dramma che sale? In realtà c'è partecipazione. Sento il dramma che sale, senti. È il dramma che sale. Alla vocina solita delle cantanti che piacciono a te? Sì, circa. Beh, insomma, praticamente con questa caviglia slegata io stavo entrando a casa e incontro il vicino di casa che solevo incontrare da tanto tempo, che era un signore molto, molto, molto anziano, ma tanto anziano, sempre gentile, sempre con il sorriso, che accompagnava via via negli anni la sua moglie, e li vedevo spesso perché ormai la signora, dall'anno in cui abitavo lì, che ci sono stata diversi anni, continuava a perdere frammenti di memoria e presenza a se stessa, quindi il quadretto tipico era loro due a passeggio, lei in carrozzina, spinti dalla loro badante, e ciò nonostante c'era una grande freschezza in tutto questo, una volontà di benessere, di cura reciproca, che averli come vicini di casa, già questo mi dava la volontà di aiutarli, di andargli incontro. Insomma, incontro lui sul cancello che un po' scherzando mi fa: ah, ti sei azzoppata! E io gli faccio sì, perché sono andata a Montesole e gli ho un po' raccontato. Nel mentre vedo il suo sguardo che un po' viene meno a se stesso, come dire, l'espressione gli cambia, come se stesse ricordando qualcosa. E quando riprende a parlare mi dice: Montesole, io sono uno dei due sopravvissuti perché il lupo mi aveva mandato a guardare la linea gotica. Sti cazzi. Sti coxi, a maggior ragione. Porca vacca, si può? Sì, porca coxa. Ah, quella lì è la signora dei bambini del coro, se la andiamo a intercettare magari vengono a raccontarci qualcosa. Sì. Vai tu, vado io? Vado io a prendere lei e le continuo dopo? No, vorrei che tu andassi avanti con la storia. Quella coi capelli... Ah no, però era un caschetto, aveva detto. Va bene, non importa, scusate. Allora, in buona sostanza... no, è passata di là. Questo signore... Lui, io nel momento in cui lui mi ha raccontato questa cosa e via via mi stava raccontando anche degli aneddoti, ma di tanto in tanto si fermava con l'occhio un po' umido e questa espressione imbarazzata e mi chiedeva scusa perché ammetteva con tanta semplicità che ormai la memoria stava venendo meno anche a se stesso. E avere lì di fronte questa persona che già a prescindere mi trasmetteva questa sorta di calore, io ero quasi contenta di abitare lì perché c'erano loro. e di vederli lì giù in giardino che mano per mano, giorno per giorno continuavano ad andare avanti per questo, e pensare da tutto quello da cui è venuto la lotta per gli ideali, l'illusione di questi ideali realizzati nel dopoguerra, il tradimento di tutto e l'avvento di tutto quello che all'epoca c'era Berlusconi, per dirne uno, ma poi peggio del peggio. E quel momento mi ha dato veramente una profonda connessione con quello che è stato questa giornata tanti, tanti anni fa. Quanti anni sono, Fedra? Tu lo sai? Io non lo so. No, nemmeno io. Tu sai contare? 45, 2019. Il 2015 sarebbero 50 anni, giusto? No, quindi sono un po' di più. Sarebbero 60 anni. 64, 64. O vi avvicinate o fate i conti a turno. Ma poi sto microfono ce l'ho da sul naso, un po' prima a me e poi a te. Altro che caviglia slogata. Beh, io vi ringrazio tanto per avermi dato, sono ancora un po' emozionata, perciò direi mettiamo un branino e io vado a beccare la tipa che magari riusciamo a portarci un po' del coro di bambini che sta facendo le loro... I bambini, riusciamo? Non riusciamo? No, ma pochi. Pochi, pochi. Se entrano i bambini io esco, dice. Io avevo messo una canzone serissima che è l'Internazionale di Billy Bragg. The Internazionale. È perché sì, lui il titolo è The Internazionale. Ah, ok. Senti qua. Esatto. Stand beside us, we'll live together or we'll die alone. In our world poisoned by exploitation, no sooner taken, they must give. And then the vanity of nations, we make one earth on which to live. Messo il silenzio. No, io invece volevo farci pubblicità a Coxo Spaziale, scusa. Perché Coxo Spaziale, magari qualcuno che ascolta Radio Città Fujiko alle 11 di mattina non la conosce. No, fallo dire alla Laura. Laura, dillo tu. Che sono più brava, non sono neanche una delle speaker. Avevo cominciato bene. È venerdì dalle 8 alle 9, dalle 20 alle 21, scusate. Alle 20 alle 21 c'è Coxo Spaziale. Tutti i venerdì. Tutti i venerdì senza, ma ogni tanto magari un... Con qualche replica. Qualche replica. E parliamo di arte e di teatro. L'arte... Non l'avete mai. Bravissima, bravo. Quello è il sottotitolo. Però noi abbiamo la peculiarità di parlare di arte in senso molto ampio, snaturando le singole declinazioni, cioè pittura, cioè arti visive, teatro... Tutto insieme nel calderone coxico. Un gran casino, insomma. Perché a noi del Coxo ci piace quello che contagia gli immaginari. Le contaminazioni. Sì, che proprio producono nuove forme, nuove scatole di pensiero e permettono, diciamo, la parte liminale della cultura dove la sperimentazione è possibile ed è fertile per creare nuove possibili orizzonti. Ed effettivamente, secondo me, noi facciamo anche un po' di resistenza culturale, no? E tante coxate. E tante coxate, però un minimo di resistenza. Fra l'altro, appunto, una puntata di non molto tempo fa era dedicata al progetto Oreste, che secondo me, appunto, è stato un progetto di resistenza culturale. Se voi andate al Mambo di domenica, questa domenica non sia, anche questa domenica, ma anche quella dopo, senti che casino che c'è fuori. E troverete nella Project Room, troverete una mostra che si intitola No, Oreste No, che è un nipotino del Coxo. Però ecco, diciamo che al Coxo, no, è una il Coxo è una costola di Oreste, secondo me. Ah, bello! Perché a Enia Media è una costola di Oreste. Ma è bellissima questa vicinanza articolare, Coxo, stiamo risalendo sulla costola, un po' alla volta arriviamo magari al cranio. Al cranio? No, ma il cranio è meglio di, anzi, occhio al cranio. No, dicevo, no, la mostra, volevo parlare un attimo di questa mostra, se me lo permetti, grazie. Che è una mostra in cui, quando la gente, il pubblico generico del Mambo viene a vederla, non capisce niente, perché non si capisce niente, che è per quello che è abbastanza coxica. Ma allora è comunicata male? No, non è comunicata male, è che è un dice che siamo ancora male. Ce l'ho, allora lascia alla libera interpretazione, ti mette lì dei fatti che tu devi cogliere a livello fenomenologico in modo da essere più connesso nell'interpretazione e rigirarlo secondo quelle che sono le esperienze della tua vita, della tua sensibilità e della tua propria poetica che questo luogo ti spinge a sviluppare. Me la sono rigirata bene? Una domanda. Ma non dovrebbe essere questa l'arte, comunque? Forse ripetilo più vicino al microfono. Ancora più. Vabbè. Ciao, microfono. Non dovrebbe essere questa l'arte? Eh certo. Secondo noi del Coxo sì. E sono 5 anni che ci proviamo. Comunque fraintesi e misconosciuti dal presidente. No, dal direttore. Il presidente ci voleva bene. Ancora? Sì. Però il problema di questo momento storico, artistico, è proprio il fatto che non succede. E dunque l'arte comunica poco, e quando questo succede non funziona. Noi cerchiamo di aiutare, ma ci vuole... Ci viene un po' da piangere. Com'è che era? Che bello, ho pianto tanto. È una citazione da Fellini, si dice: è stato bello e ho pianto tanto. Bonazzi. Mi vuoi far mangiare la merda a me? Non ho capito. Mi vuoi far mangiare la merda a me? Non ho capito. Bonazzi. Mi trovo in via Marsala 35 e qui c'è un miracolo. Pizza Artist. E qui c'è un miracolo. Pizza Artist. E qui c'è un miracolo. Un posto miracoloso. Pizza Artist. Un pizzettaro che da un mese è venuto qui da Roma e fa pizza al taglio come a Roma, di qualità spaventosa, incredibile, con olio extravergine d'oliva. Eccola qua. Pizza Artist. Pizza Artist. Ho capito. Pizza Artist. Mi vuoi far mangiare a me, da me. Pizza Artist. Ho capito. Pizza Artist. Ho capito. Pizza Artist. Mi vuoi far mangiare a me, da me. Ho capito. Pizza Artist. Bonanza. Pizzarpist. Mi vuoi far male la merda a me? Pizzarpist. Non c'è via. Pizzarpist. Mi vuoi far male la merda a me? Pizzarpist. Non c'è via. Pizzarpist. Prima di dire cazzate, il documento. Nel posto che tu dici, dove sono appena stato, c'è lo strutto nell'impasto e usano l'olio di semi di girasole invece dell'olio extravergine d'oliva. Quindi che mi vuoi far mangiare la merda a me? Non ho capito. Pizzarpist. Mi vuoi far mangiare la merda a me? Pizzarpist. Non ho capito. Pizzarpist. Non ho capito. Attenzione al break, ma tutta la prendiamo la sorte male, Sarnales, mi vuoi far mangiare la merda a me? Yeah! Pizzarpist. Bonazzi. Pizzarpist. Mi vuoi far mangiare la merda a me? Ci dicono che questa è pubblicità occulta. Neppure troppo occulta, direi. Non è molto occulta. Eppure è anche un'opera d'arte di Bonazzi. Di Davide Bonazzi, che di solito lo conoscete come illustratore, invece lui sa fare anche musica. Solo se il vocalist è Sarno. Esatto. Esattamente. Salutiamo Davide Bonazzi e anche Lorenzo Sarno, che nessuno dei due. No, forse Bonazzi è in giro, chissà. Chissà. Chissà è una delle parole più cocciche di tutti questi 5 anni di esperienza, dico bene? Sì, e poi volevo così ricordarvi che siamo qui a Coxo Spaziale con Fedra Boscaro e Stefano W. Pasquini. Yeah, poi abbiamo anche dei coxonauti. Ah, sì, abbiamo dei coxonauti e siccome Stefano giustamente suggeriva con il suo piglio pubblicista, prodotti marketing. Piglio pubblicista, Fedra, cioè, che cosa dici? Non lo so. Beh, insomma, vuole un pochino, beh, il lessico, anche questo è qualcosa che vogliamo... Dettagli. Ma sì, spariamo delle parole a casaccio, capito? Che poi alla fine se Sarno ci ascolta ci manda anche un messaggino per sguidarci. In latino. Siamo sempre pronti a mantenere alta l'attenzione dei nostri ascoltatori e in ogni caso, diceva Stefano, ma facciamo conoscere un po' questo coxo alle persone che non ci coxano. E allora qui abbiamo l'esempio cardine, una meravigliosa espressione di coxonauticismo nella persona di Laura Voltolina che tu puoi intervistare. Posso intervistarla? Intervista. Così. No, perché quando uno ha dei jingle è bene utilizzarli. Aspetta che metto in pausa perché altrimenti mi parte anche il secondo jingle. E Laura, che cosa fai tu nella vita? No. Dovevi intervistarla su perché gli piace il cox. Laura, perché ti piace il cox? Ma infatti perché mi fai fare cose? Io volevo sapere che cosa fa Laura nella vita. Se la fa lui, la fa lui. Se la fai tu, la fai tu. Cioè, grazie, no? Anche perché voglio dire, in un giorno come questo, in cui la libertà è fondamentale, non è che qualcuno in radio ti può dire e costringere a fare delle cose che magari uno non vuole fare. Vai, intervistala. Faccio ammenda. No, vai. Allora, Laura, che cosa fai di bello nella vita? Io insegno yoga. Vedi che bello? Io per esempio non lo sapevo. Certo. Dove? Tanto per fare delle marchette. Allora, al momento a Padova, ma sto per trasferirmi a Bologna. Hai capito, vedi? Non sapevo neanche questa cosa qua. Un'altra padovana, no, infatti devo dire che senza il Veneto Coxo Spaziale sarebbe pressoché nullo, anzi, ne approfitto per salutare anche il nostro Oscar Moroni, detto anche Giffo. Ma perché ti piace Coxo Spaziale? Ma perché ci siete voi inizialmente e poi perché ho imparato un sacco di cose. Io ho sempre pensato che insomma l'arte, le cose che avevo studiato a scuola, le mostre che vado a vedere, però mi date dei suggerimenti che altrimenti non troverei. Ah, coxatissima questa. E non l'ho neanche pagato da bere. Dopo. Coxo spaziale. Questo era sempre Farnedi, quello che abbiamo sentito prima, che ci ha fatto questo jingle. Ma io sono rimasta talmente scossa da quanto ha detto Laura, che oltre ad offrirle il pranzo ho bisogno di un brano, forse per riavermi io, poi non lo so te. Sì, io te lo posso far avere, si chiama Police on My Back ed è una cover dei Clash fatto dagli Eagles. Dobbiamo smettere di fare finta di parlare perché è ripartita la trasmissione, Fedra, e siamo sempre qui live dal Pratello. In questo momento è finita la musica fuori ed è finita la musica anche dentro. Quindi questo significa che adesso quello che sentiamo, che si sente in radio, lo sentono anche fuori in strada? Sì, così mi dice, così. Vedo dei segnali di assenso di qualcuno qua seduto che... E qualcuno è proprio il nostro direttore. Esatto, per la prima volta ci ascolta. Cavoli, non so chi vuole scappare più lontano. Non lo so neanch'io. Noi non possiamo scappare perché c'è Darth Vader che ci sta tenendo prigionieri all'interno del magazzino. Anzi, fra l'altro, questo è il magazzino del Vaniglia. Che cos'era prima? Ecco, prima era uno studio di un artista e anzi c'è un fantastico soppalco che è stato costruito da Elia, questo artista che è scomparso nel 2005 ma che nel Pratello tutti ricordano con molto bel sentimento. Questo era lo studio di Elia? No, questo non era lo studio di Elia, era lo studio di un artista, ma il soppalco è stato costruito da Elia. Beh, perché effettivamente la comunità degli artisti bolognesi, forse maggiormente negli anni addietro, era molto presente, giusto? Dico bene? Cosa è successo? No, niente, pensavo che non fosse andato in pausa. Era molto presente, c'era molta comunicazione tra di loro, trasversale, dall'andare a bere insieme la pizza, bere la pizza, che mi sembra una cosa molto, al costruirsi il soppalco, a condividere operazioni, pitture, mostre? No, in realtà assolutamente no. Il senso di comunità a Bologna artistica c'è stato per molto poco tempo, appunto qua, ed è successo alla fine degli anni 90 quando c'è stato il progetto Oreste che stava funzionando. Dopodiché il progetto Oreste di cui stavo parlando, che è questa mostra che trovate alla Project Room del Nambo, dopodiché il progetto Oreste nel 1999 è stato invitato alla Biennale di Venezia da Harald Seemann, e dopodiché naturalmente è andato tutto a puttane, perché immediatamente tutti gli artisti volevano sgomitare, farsi vedere per primi. La cosa è molto più semplice per quel che riguarda il soppalco che è dietro di noi, ovvero a Bologna c'era questa dicitura: o vai all'IKEA o chiami Elia. Ma quindi Elia l'ho conosciuto anch'io, per fortuna, però da lì a capire che faceva l'artista ci ho messo un bel po' di tempo. Cos'è che dicevamo? Dei bambini che volevano venire a cantare? Beh, perché no, è perché qui, fra l'altro, per quelli che non erano in piazza, come risulta anche dal programma, per un'ora e più un sacco di bambini delle scuole elementari hanno portato questo coro con delle canzoni della tradizione della liberazione, e anche magari qualche mi è parso di sentire qualche canzone nuova. Chissà se l'avevano creata loro magari insieme ai bambini facendo ricerca e lavoro durante l'anno. Perché effettivamente un po' del nostro compito radiofonico è anche quello di raccontare che cosa succede al Pratello oggi. E nel palco principale abbiamo Paradox Loose, Mojito Bankalema, French and the Firebirds, The Johnny Clash Project, Le Tremende dopo, e anche gli Assalti Frontali. Ma abbiamo qua dei bellissimi bambini che magari sì, stanno partecipando attivamente alla festa, e chiediamo a loro che cosa significa per loro essere qui, che cosa vi piace. Chi va per primo? Mi chiamo Davide e oggi sono qua perché Bologna si è liberata dai fascisti, e quindi siamo qua, che è un giorno di festa, a manifestare questo. Vi piace essere qui? Sì. Dillo di nuovo? Sì. Cioè, io sono qua per vedere i bambini che cantavano prima anche. Così. Vi sono piaciuti i bambini che cantavano, il coro? Sì. Ma voi cantate anche sì, voi? Sì. No? Tu non canti sotto la doccia? Come ti chiami tu? Pietro. E tu? Eleonora. Eleonora, tu canti sotto la doccia? No. No? A casa sì, però. Che cosa ci canti? Lo sai che sei a Sanremo in questo momento? Sei sul palco dell'Ariston? Vai, canta. Ma voi conoscevate i bambini che... No, l'ho scioccata, mi dispiace. Faccia contro il muro, Stefano, punizione. Ma voi conoscevate i bambini che stavano cantando? Pochi ne conoscevo. Neanche io, alcuni. Tipo i vostri compagni di classe oppure amichetti? Io conoscevo solamente dei bambini della nostra scuola in cui noi due andiamo di prima. E tu? Conoscevo dei bambini della mia scuola. E vi sarebbe piaciuto cantare insieme a loro? Ma, boh, non lo so. Bisogna provare. Sì. E che cosa vi aspettate adesso da questa giornata? Mangiare. Aspetta che abbiamo un altro partecipante. Mangiare. Anche quella è una grande parte della liberazione, la liberazione degli appetiti. Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi, e se rivedete i vostri amici del coro, ditegli che sono stati bravissimi e che speriamo di risentirli presto. Mi fate un bel ciao in coro, tutti e tre? Ciao! Ciao, grazie! di sottofondo, questo sole, tutti questi vestiti colorati, frizzanti. È proprio bellissimo fare qui la radio in diretta con i bambini che ballano, sulla musica che hai scelto tu, Stefano, con le solite luci. Con il direttore che ci dice di abbassare la musica perché altrimenti non sente la, non sente la voce. Vabbè, ma io stavo facendo un intermezzo, sperimentando l'onda del suono. Stavi sperimentando l'onda del suono, però alla radio non ti si sentiva. Va bene, hai ragione, anche questo è un dato importante. Comunque, sorprendentemente, è già volto al termine il nostro programma, la nostra ora di trasmissione, quindi Coxo Spaziale si appresta a salutare i coxonauti vicini e lontani. Sì, e noi eravamo Fedra Boscaro e Stefano W. Pasquini. Questo era Coxo Spaziale vi lasciamo con le visto che non vuole entrare a parlare con noi quando il direttore non viene a noi, noi andiamo al direttore. Però prima salutiamo una Coxo livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Beh, dobbiamo salutare anche Laura Voltolina, che è stata una coxonauta d'esperienza e di veterana. Ciao. Una gran bella mia. Coxo Spaziale fa bene. Fa bene alla salute mentale. Ci sentiamo venerdì, continuiamo qui dal fratello. Ciao. I pull a raven to the mountain flat. I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hopsa, I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound you can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hopsa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. The troubled soul. So I'm relaxed, I'm just lurking around. I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant punk. Punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk. Immigrant punk.